9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornato in studio, Oscar Gino torna a salutarvi e a chiedervi di chiamare all'800 24 00 24 per chiedere al nostro ospite che cosa dal vostro punto di vista nella vostra impresa, quella che controllate, quella che partecipate, quella in cui lavorate, si potrebbe fare di più per rilanciare meglio il commercio internazionale e le esportazioni del nostro paese, che sono i due terzi della nostra crescita, del nostro meccanismo di sviluppo. Ci occupiamo infatti oggi di uno dei punti, secondo me il più importante fino a questo momento, dell'agenda del G8 che è in corso oggi di completamento all'Aquila, qual è a mio giudizio quello del commercio mondiale, appunto perché il commercio mondiale rappresenta il drive della crescita planetaria. Io ricordo tutto che il 2009 vede una diminuzione in corso degli scambi mondiali superiore al 10%, intorno al 12-13%, ed eravamo reduci da anni fino al 2007, in cui invece gli scambi internazionali commerciali salivano del 7-8 punti annuali. Nel 2008 c'è stato un raffreddamento molto forte, poco più del 2%, quest'anno siamo a meno 12, meno 13, e questo è il punto fondamentale. Cosa si è deciso nel documento del G13, anzi G14 di ieri, ed è importante che sia con l'estensione più ampia rispetto al G8, si è deciso di darsi il traguardo di chiudere il negoziato del Doha Round bloccato da luglio dell'anno scorso, di farlo con una seduta dei ministri del commercio dei paesi che hanno firmato il documento ieri all'Aquila quest'estate, e l'impegno quindi di dare uno sblocco all'agenda delle aperture e delle chiusure reciproche, che per esempio sulle liberalizzazioni dei prezzi di alcuni beni alimentari e tessili avevano portato allo scontro tra grandi paesi, soprattutto Stati Uniti e India. Ecco, abbiamo con noi come ospite della giornata Adolfo Urso, il vice ministro per lo sviluppo economico con la delega al commercio internazionale. Buongiorno Urso. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benissimo, io la destinerò molto, ecco, al di là degli approfondimenti tecnici, a rispondere agli ascoltatori. Iniziamo subito con uno di loro, Antonio dalla provincia di Ancona, prego. Buongiorno. Prego. La mia domanda è semplice, vorrei sapere se diciamo a livello internazionale quanto peso gli si sta dando oggi ad avere delle sedi permanenti nei vari paesi, o almeno i più importanti, per promuovere il Made in Italy attraverso addirittura delle fiere sul luogo. Secondo me questo investimento sarebbe la cosa più importante che ci potrebbe essere in questo periodo. Grazie Antonio, il numero a cui chiamare è 800 24 00 24. Prego Urso, facciamo prima un punto generale sull'Aquila, poi abbiamo un'ora con noi per approfondire il rilancio del Made in Italy in questa difficile fase. Qual è la sua valutazione del punto del G8 sul commercio? È di straordinaria importanza per due motivi. Il primo perché lo hanno sottoscritto non soltanto gli 8 paesi del G8, cioè i paesi più ricchi occidentali, ma lo hanno sottoscritto coloro che hanno partecipato al G14, cioè anche gli altri grandi attori dell'economia mondiale, i paesi emergenti, parliamo di Cina, di India, di Brasile, Sudafrica, Messico ed Egitto, che l'Italia ha fortemente voluto in questo nuovo tavolo più efficace, più completo della governance globale, che noi speriamo da questo punto venga istituzionalizzato. Dico perché se fosse stato sottoscritto soltanto dal G8 sarebbe stato poco efficace, perché nel Doha Round, nel regolo del commercio, contano molto anche le decisioni degli altri, in modo particolare di quelli che ho citato, che sono i grandi protagonisti leader dell'area emergente del mondo. Averlo fatto insieme significa aver posto dei vincoli reciproci estremamente significativi. Il secondo aspetto importante è che per la prima volta sono stati posti appunto dei tempi certi e una deadline, un obiettivo e un traguardo entro il 2010. Tempi certi e anche procedure certe. Prima del vertice C20 che si svolgerà negli Stati Uniti a Pittsburgh, a fine settembre ci sarà una riunione dei ministri del commercio di questi paesi protagonisti e leader nel mondo per cercare di arrivare a chiudere le modalità sull'agricoltura e l'industria già alla fine di quest'anno, e questo consentirebbe poi di chiudere l'intero round entro il 2010, 9 anni dall'inizio, perché round iniziò nel 2001 a Doha, appunto, io allora ero partecipe perché ero il capo delegazione italiano, e fu definito la riforma degli grande riforma, se vogliamo il progetto di questa grande riforma, e sono passati 9 anni e non l'abbiamo ancora definito in maniera compiuta. Se l'obiettivo che è stato indicato ieri in un così autorevole consesso sarà rispettato, e noi pensiamo che sia rispettato e agiremo perché sia rispettato, in 9 anni avremo chiuso questa riforma del commercio mondiale. 9 lunghi anni in cui il mondo è cambiato, ma lo ricordo a me stesso, il precedente round negoziale del commercio mondiale, l'Uruguay Round, è durato 8 anni. Sì, sono tempi purtroppo lunghi delle trattative internazionali. Un altro ascoltatore, la interrompo, poi riprenderà, che ci pone un'altra questione un po' più terra terra sulle questioni italiane. Fabiano da Bari, prego. Sì, buongiorno, salve. Senta, io sono un agente di commercio per quanto riguarda tessuti per abbigliamento, lavoro in Puglia. Questo settore è stato completamente distrutto dall'importazione selvaggia che viene fatta ogni giorno. Non ci sono regole, arriva la roba marcata made in China e qui viene sostituito l'etichetta. Il compartimento è oramai è distrutto, e l'avete visto anche su Prato. Sì, però posso fare una domanda: se sì, avvengono pratiche di questo tipo con prodotti a basso bassissimo costo di provenienza asiatica o cinese, a cui poi c'è qualcuno che in Italia sostituisce l'etichetta e qualcuno in Italia che fa il furbo, o no? Fa il furbo, ma non ci sono regole, perché una volta che vengono pizzicati pagano la multa, a loro conviene, perché tanto i margini sono talmente alti che gli conviene pagare la multa. Pagano la multa, la Guardia di Finanza gli restituisce la roba e la roba viene rimessa sul mercato, come se nulla fosse. Ma a prescindere da questo, non è possibile che dobbiamo importare tutta questa roba e i nostri operai non possono più lavorare. Alla fine è il cane che si morde la coda, i nostri operai non potranno comprare neanche più il prodotto cinese. Grazie. Quindi, Fabiano, no, ma è chiaro quello che dice, ed è l'argomento classico di chi teme, soprattutto nelle contrazioni, e che il commercio mondiale, invece di essere un motore per la crescita, sia una concorrente per l'occupazione interna. Ed è forse da questa preoccupazione rituale, Urso, che dobbiamo ripartire. Che cosa rispondiamo? Allora, devo rispondere all'altro ascoltatore e poi a questo. L'altro, per quanto riguarda la presenza italiana all'estero e sostegno alle fiere, noi abbiamo fortunatamente 105 uffici di istituto del commercio all'estero e ormai nelle principali fiere internazionali, grazie alle direttive che abbiamo dato come Ministero, è presente un padiglione Italia ben riconoscibile, in cui tutti gli operatori italiani che lo volessero possono ovviamente esporre i propri prodotti. Questo riguarda le fiere di Shanghai, come quello di New York, a Mosca, come a San Pietroburgo, ovviamente anche a Melbourne, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni e dalle agenzie proposte alla promozione. In questo caso l'ICE partecipa alle spese, ovviamente una percentuale dal 25-30%, il resto lo deve fare l'impresa, ma in un quadro organico in cui è ben chiaro, con una, per esempio, sintonia anche per quanto riguarda la scenografia, il design, è identificabile Padiglione Italia. Le imprese, basta che si rivolgono ovviamente solo per il commercio con l'estero, possono partecipare. Seconda questione, mi si diceva prima, le regole esistono. L'Italia ha le regole più severe d'Europa, tra l'altro le abbiamo inasprite proprio ieri nel provvedimento sullo sviluppo economico approvato in via definitiva dal Senato, per la lotta alla contraffazione e anche alla concorrenza sleale. Il caso che dicevi, si parla di concorrenza sleale e non di contraffazione, ma per quanto riguarda l'etichettatura noi abbiamo equiparato il reato, appunto, perché di reato si tratta, a contraffazione, per cui chi in Italia cambia l'etichetta Made in China o mette l'etichetta Made in Italy in un prodotto che non è stato realizzato prevalentemente in Italia, come prescrivono i codici doganali europei, commette un reato, il reato di contraffazione, che viene punito dalla legge. Molto spesso questo reato purtroppo non viene perseguito perché magari non c'è la denuncia o perché non c'è un efficace controllo, però voglio sottolineare che quest'anno la Guardia di Finanza è riuscita a raddoppiare la sua capacità di intervento, perché la merce contraffatta sequestrata alla dogana è il doppio rispetto a quanto avveniva lo scorso anno. Purtroppo le dogane sono europee e molto spesso più noi siamo severi nella dogana di Napoli, più la merce entra nella dogana di Amsterdam, e quindi la battaglia va fatta in sede europea, come fece l'allora commissario europeo Frattini, armonizzando le norme doganali europee nella lotta contro la contraffazione. È una lotta che dobbiamo fare ogni giorno. Ministro, prima però sull'interscambio commerciale, è vero, che l'Italia importa molti prodotti, però è altrettanto vero che l'Italia è un paese grandemente esportatore, anche in Cina e sempre più in Cina. Cito i dati di maggio, l'ultimi che abbiamo. Le contrazioni, le esportazioni italiane sono diminuite meno di quanto siano diminuite le esportazioni degli altri grandi paesi esportatori, diciamo di circa il 20% in maggio rispetto al maggio dello scorso anno. In Giappone meno 41, in Germania meno 35, perché c'è la crisi del commercio mondiale che le diceva. Però in questi dati negativi c'è un dato positivo: le esportazioni italiane in Cina in maggio di quest'anno rispetto al maggio dello scorso anno sono aumentate del 19%, dice più 19% in un anno, il che vuol dire che siamo sempre più competitivi anche in quel grande mercato. Noi dobbiamo capire e capirci: noi possiamo produrre in Italia ed esportare prodotti di qualità, prodotti di grande innovazione tecnologica, quello è il nostro segmento di mercato mondiale. Sui prodotti di scarso valore, su prodotti di scarso valore tecnologico e anche di scarsa qualità, inevitabilmente saremo costretti a importare dagli altri, dove il costo della manodopera e altri costi sono minori. Ministro, la interrompo per tornare a un punto che riguarda proprio il tessile e l'abbigliamento e a spiegare a chi ci ascolta la tutela dell'etichettatura Made in Italy. Lei ha detto testualmente: l'etichettatura Made in Italy corrisponde a prodotti in cui la prevalenza delle fibre eccetera eccetera è appunto Made in Italy. Ci sono alcuni nella filiera del tessile e dell'abbigliamento, in particolare nella parte alta della filiera, quindi sto parlando per esempio Luciano Barbera, un protagonista di solito degli incontri delle Camere della Moda italiane, che chiede da anni di battersi perché questo Made in Italy implichi invece la denominazione di un prodotto in cui ogni singola componente, ogni singola fibra, ogni singolo processo di lavorazione di un capo d'abbigliamento sia totalmente in Italia. Che cosa c'è in realtà sotto questa questione tra una prevalenza di processazione e di filatura in Italia e un totalità? Guardi, sono due questioni diverse che purtroppo spesso vengono confuse. Il Made in Italy, come il Made in China, il Made in United States, risponde alle regole internazionali e al codice doganale europeo, per cui un prodotto può essere etichettato Made in Italy o Made in China se quel prodotto è realizzato in misura prevalente in valore in quel paese. Il valore non è soltanto ovviamente il tessuto primario, il valore è anche l'ideazione, il design, il valore in quanto tale, certo, che viene aggiunto in un prodotto. Viene realizzato prevalentemente in quel paese. E nel codice doganale, nei documenti doganali, c'è scritto se quel prodotto è realizzato prevalentemente in Cina o prevalentemente in Italia. E solo quel prodotto può essere etichettato Made in Italy. Ma questo è una facoltà. Mi spiego. L'Europa non ha ancora realizzato quella proposta che proprio io feci nel 2003 durante la presidenza italiana dell'Unione Europea, di realizzare un regolamento vincolante per tutti i paesi europei affinché questa etichettatura sui prodotti importati in Unione Europea fosse vincolante. Per intenderci, un prodotto made in China può giungere in Italia e in Europa senza l'etichettatura made in China, perché non c'è un vincolo europeo a farlo, mentre un prodotto italiano che viene esportato in Cina ha l'obbligo di scrivere Made in Italy se corrisponde a questo codice doganale. Questo sarebbe già una grande rivoluzione che proteggerebbe, tutelerebbe soprattutto il consumatore, che a questo punto avrebbe nella etichettatura una certezza: fatto in Cina o fatto in Italia. Altra cosa è quello che propone Barbera. Barbera propone che debbono essere realizzati interamente in Italia, ma quei prodotti non possiamo noi porre l'etichetta Made in Italy, perché l'etichetta Made in Italy, come Made in China, Made in United States, risponde a un criterio internazionale che dice appunto realizzati in misura prevalente. Allora noi potremo fare, questo sì, una legge che dice i prodotti che saranno invece realizzati totalmente in Italia, dal tessuto fino all'ultimo degli spilli o delle bottoni, può avere un'etichettatura facoltativa. Ma quale etichettatura? Non Made in Italy? potrebbe essere per esempio un'etichettatura che dice totalmente made in Italy, Italy, ma è una cosa diversa. No, no, ci ho tenuto appunto a che lei spiegasse, perché c'è un equivoco permanente sulle norme internazionali a cui bisogna fare riferimento e la tutela di ogni singola parte di un prodotto di lavorazione italiana. Per esempio è stato fatto recentemente con l'olio. Esattamente. Ora l'olio, le bottiglie di olio potranno avere l'etichettatura olio integrale italiano, nel senso che l'olio è non soltanto la lavorazione e quindi anche la fonte primaria, in questo caso le olive, siano italiane. Benissimo. Però guardi che nel tessile abbigliamento soprattutto, ma io dico in quasi ogni tipologia di produzione, la gran parte della materia prima inevitabilmente viene dall'estero. Sì, sì, questo non c'è dubbio, per chi conosce come funziona oggi il settore, e questo è inevitabile per questione sia di costi che di luoghi di produzione e lavorazione. Allora, due sms dai nostri ascoltatori. Dice il primo, sono numeri con testati, quindi non sono inventati: ho venduto un impianto in Arabia che richiede un mese di permanenza sul posto di tecnici, ma non trovo italiani disponibili ad andare e quindi ci mando dei tedeschi. Un secondo messaggio: si parla di regole, si parla di pene, in Cina per il latte hanno messo al muro 5 persone, e questo è Gabriele di Padova che si firma. Bene, riprendiamo con gli ascoltatori. Alcuni sono in fila già da parecchio allo 800 24 00 24. Cominciamo con Alessandro da Brescia. Alessandro, dica. Sì, buongiorno. Il vostro ospite, adesso non mi ricordo come si chiama. È il ministro Urso. Ecco, il ministro Urso. Diceva che... Urso, non russo. È italiano, Urso. Sì, sì, sì. Diceva che è stato firmato un trattato adesso ieri molto più restrittivo per le importazioni e tutto questo. Io volevo solo dire, se questo ministro può andare a Firenze, c'è un mercato, e l'ho visto l'altro ieri, ci saranno 50-60 banchi pieni di borse di Gucci, Prada, Louis Vuitton e tutta merce contraffatta. Cioè, allora è inutile fare le regole e non farle rispettare, signori. Cioè, facciamo rispettare le regole, prendiamo tutti questi banchi, sequestriamo la merce, pacchettiamola. Molto chiaro, molto chiaro Alessandro, si fa poco per attuare le norme di cui si dà annuncio. Un altro ascoltatore, Fabio da Milano, prego Fabio. Buongiorno, dica. Io volevo sapere se si sta pensando di utilizzare maggiormente uno strumento come l'assicurazione dei crediti, come stanno facendo per esempio altri paesi come la Francia o altri paesi in Europa, per sostenere appunto l'export e dare una mano alle nostre aziende che si stanno muovendo in questo senso. Grazie Fabio. Urso, una risposta ai due quesiti. Le regole ci sono e sono più severe di altre. Io stesso nel 2004 feci approvare un provvedimento che punisce anche l'acquisto, cioè con l'acquirente di prodotti contraffatti, con multe particolarmente salaci. Se l'ascoltatore va a Verona, ci sono dei manifesti nel centro di Verona che dice: rispetto alla legge, articolo tardale della legge del 94, del 2004, viene punito chi acquista prodotti contraffatti. A Verona non c'è più un venditore ambulante che vende prodotti contraffatti, perché la legge viene applicata e viene multato anche chi l'acquista. A Firenze questo non viene fatto, ma questo è compito dei comuni, attraverso le varie polizie anonarie e soprattutto i vigili urbani. Se i comuni non danno disposizione affinché la legge venga applicata, è responsabilità dei comuni, non può essere responsabilità del legislatore. E questo purtroppo accade, per cui vi è questa disparità tra il comune di Verona, in cui la legge viene applicata, non c'è più un venditore ambulante, anche perché anche il cittadino italiano che acquista un prodotto è punibile, e il comune di Firenze, magari, me lo dice l'ascoltatore, in cui questa legge non viene applicata. Quindi, tradotto a chi ascolta, occhio al sindaco, ecco, insomma, il terminale prossimo a cui rivolgere le vostre istanze di attuazione è la polizia annonaria e i servizi del comune che sono incaricati di intervenire sui mercati in quel caso. Certo. La seconda domanda riguardava, mi è sfuggita? La seconda domanda è alla SACE, l'assicurazione. L'assicurazione. La SACE tra l'altro ha rinnovato recentemente proprio i propri tra virgolette prodotti e interviene anche sul mercato interno, non soltanto quello internazionale, per esempio per il sostegno al credito delle imprese che avanzano pagamenti da parte della pubblica amministrazione. In campo internazionale, l'ho detto nel mese di settembre, ai primi albori della crisi purtroppo, la SACE ha tutte le risorse a disposizione per poter intervenire a sostegno delle esportazioni delle imprese italiane all'estero. E vi sono le risorse sufficienti, sono state estese sostanzialmente in tutte le aree significative per il nostro Paese. Certo, quell'impresa o il suo acquirente deve rispondere ad alcune regole di mercato, deve dare affidabilità. All'interno di questo la SACE è pienamente attiva in campo del sostegno al credito all'esportazione, e la SIMEST, la società italiana che invece supporta gli investimenti delle imprese italiane all'estero, ha svolto la propria assemblea la scorsa settimana chiudendo un bilancio inattivo. Parlo di due società pubbliche, una che sostiene gli investimenti e l'altra di assicurazione, che hanno chiuso con bilanci inattivi, il che vuol dire che anche dal pubblico si può essere efficienti e efficaci ampliando la propria attività. Io chiedo alle imprese italiane di rivolgersi a loro, perché non molto spesso lo fanno, anzi bene, lo fanno in pochi. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando del rilancio del commercio mondiale e l'impegno assunto ieri col comunicato del G14 su G8 esteso ai paesi emergenti di dare una chiusura con un nuovo accordo al negoziato di Doha, che è aperto da molti anni e che si era bloccato l'anno scorso, di chiuderlo entro il 2010 e di vedere insieme al nostro ospite il viceministro Urso che cosa si può fare in questo per accelerare la ripresa delle esportazioni e del commercio italiano, così importante, ripeto, più dei due terzi del commercio corrisponde al traino del nostro PIL. Abbiamo nuovi ascoltatori in linea, il numero è 800 24 00 24, cominciamo da Giampiero da Roma, prego Giampiero. Sì, buongiorno, io volevo intervenire riguardo al problema delle merci contraffatte. Ma io lavoro in un organo di polizia, nella Polizia Municipale di Roma, sezione Polizia Amministrativa. Ah, quindi li abbiamo chiamati in causa prima le polizie municipali e lei direttamente risponde. E quindi a Roma che esperienza ha? A Roma ho un'esperienza di un lavoro quotidiano, capillare, H24 se possiamo dire, nel primo municipio, quindi tutto l'area che comprende il centro storico, e posso assicurare che di sequestri ne facciamo a tonnellate, veramente a tonnellate, e ovviamente di merci contraffatte, quindi è un problema, poi diventa un problema penale. Ma un fenomeno in crescita, stabile o in contrazione dalla sua esperienza lottando sulla strada contro la contraffazione? Mi sembra che sia stabile, che sia stabile. Il punto è, e non dico niente di nuovo, lo sanno tutti, è che vengono fabbricate queste, vabbè, per esempio parliamo di borse, ecco, assolutamente identiche a quelle delle maggiori griff, Prada, Fendi o quant'altro, assolutamente identiche, senza il contrassegno. Il contrassegno viene fatto da un altro canale. Quindi queste borse, ci sono a Roma delle zone dove vengono vendute senza contrassegno, ovviamente alla luce del giorno, perché a quel punto non c'è nessun illecito, no? Benissimo. Non hanno il marchio, quindi sono assolutamente anonime, fra virgolette, ma chi ne capisce si rende conto perfettamente che sono identiche. Quindi ci sono dei negozi a Roma, nella zona Piazza Vittorio e limitrofe, gestite non da italiani, dove queste borse vengono vendute alla luce del sole, al pubblico, al dettaglio. Dopodiché le stesse borse prendono un altro canale merceologico, diciamo, di vendita, gli si aggiungono questi. Grazie questi, Giampiero. No, ma ha spiegato chiaramente che al di là della contraffazione più immediata e diretta, di cui è anche in qualche misura più facile il contrasto, esistono anche circuiti paralleli, forse meno evidenti, ma altrettanto forti, se non più, che lambiscono forse parti ufficiali del sistema della lavorazione e della distribuzione. Lei che pensa, Urso? Ma certamente la contraffazione è un'impresa. E poi da italiano che sa cosa significa lavorare in Italia, dico, aggiungo anche che l'Italia purtroppo è ancora rimasta un paese contraffattore, ci sono anche molti italiani che fanno contraffazione in casa, credo che nel mondo occidentale noi siamo comunque purtroppo ancora coloro che contraffaggono di più anche in casa, oltre a quello che viene dalla Cina. Però il reato c'è comunque, anche se non viene messa l'etichettatura Fendi piuttosto che quella di un altro impresa, marchio del Made in Italy. Il reato c'è anche quando si copre il design. Cioè il fatto stesso che si riproduce una borsa uguale a un'altra con un design, con magari degli accorgimenti tecnologici simili agli altri, questo di per sé è un reato, perché il design anch'esso è brevettato. Quindi si tratta di due fenomeni diversi ovviamente, ma entrambi punibili. E io credo che comunque c'è bisogno, e questo il governo si è impegnato, c'è in atto una campagna di educazione e di informazione al consumatore, anche con spot e non soltanto televisivi, perché chi realizza un prodotto contraffatto molto spesso lede il diritto e la salute del consumatore. Perché non è soltanto la copiatura di un design, ma è anche il materiale con cui viene realizzato quel prodotto. Noi abbiamo visto che vi sono per esempio dei casi di scarpe che vengono realizzate in altri paesi ovviamente, con materiali che possono addirittura essere cancerogeni. Noi prendiamo il caso degli occhiali da sole, il caso più emblematico anche di contraffazione. È evidente a tutti che non è semplicemente il prezzo, non è soltanto determinato la qualità del prodotto dal design, se il design è bello o brutto, se di una grande firma o meno, ma dalla qualità della lente, se protegge o meno dai raggi del sole i nostri occhi. Ebbene, un prodotto contraffatto è evidente a tutti che non risponde a questa qualità, molto spesso utilizza dei prodotti e dei materiali che non hanno questo tipo di protezione e può ledere la salute, la nostra salute. Quindi certamente Bisogna far capire al consumatore effettivamente che differenza c'è tra un prodotto di qualità che risponde a delle regole nella costruzione e nei materiali utilizzati e un prodotto contraffatto che molto spesso non risponde a queste regole e per questo costa meno. Benissimo. Perché protegge meno. Questo vale anche per i tessuti. Un altro ascoltatore, Mario da Piacenza. Dottor Giannini, buongiorno. Prego, buongiorno a voi. E faccio i complimenti per la trasmissione. La seguo dai tempi della signora. Lasci perdere, venga al punto. Niente, e io volevo fare questa osservazione, mi interessava sapere la sua opinione e quella dei suoi ospiti. Allora, a me, penso come sia capitato anche agli altre persone, spesso mi capita di comprare capi di abbigliamento nei supermercati, nei negozi. E allora, e poi quando tu paghi ti danno la busta e c'è scritto grazie per aver preso questo prodotto Made in Italy, Made in Italiano, così salvaguardia migliaia di posti di lavoro il Made in Italy. Poi vai a leggere l'etichetta, che è un'abitudine che tutti dovrebbero avere, e c'è scritto Made in Pakistan, Made in Cina, Made in Thailandia. E beh, sinceramente, questa è una presa in giro, perché i signori industriali, per spendere poco e per risparmiare sulle materie prime, fanno costruire i capi di abbigliamento, i giocattoli, anche i parti di automezzi, scooter, eccetera, all'estero, e poi te li spacciano come Made in Italy. Chiarissimo, no, ma è chiarissimo ed è uno dei punti su cui io lo so, Ministro Urso, che è quasi noioso per chi ha la sua delega rispondere a questo. Per esempio, uno dei miei compiti come giornalista è spiegare che il Made in Italy per un prodotto può essere la Piaggio, può essere un capo d'abbigliamento. Ecco, un prodotto è fatto di diversi processi, è fatto innanzitutto di inventiva, è fatto di evoluzione del design, è fatto di fedeltà a un certo tipo di design, di reinterpretazione della tecnologia che si inserisce in un prodotto che con il suo design è coerente a una linea che sa di antico, cioè di una certa qualità, e che contemporaneamente diventa tecnologicamente invece con una intensità di capitale molto più elevato per innalzare la fruibilità e migliorarne l'interoperabilità con il cliente. Tutto questo fa parte di un Made in Italy, anche se poi le singole componenti meccaniche, idrauliche, tessili provengono da parti del mondo diverse, ma quello che conta innanzitutto è l'ideazione, la realizzazione, oltre che poi la commercializzazione e la strategia di marketing globale diversificato. Questo tocca innanzitutto spiegarlo a noi come giornalisti, ma al politico, di fronte a questa che è un'obiezione di fondo del cittadino, dell'acquirente, del consumatore, qual è la risposta che dà il politico? Che deve essere saldo e fermo e affermato il principio della trasparenza, cioè occorre con lealtà e le regole ci sono, dire al consumatore qual è, come un prodotto è stato realizzato e dove è stato realizzato. E questo ovviamente fa parte delle regole che noi abbiamo posto, di quelle che abbiamo chiesto in più all'Unione Europea. Poi se il cashmere ovviamente viene dalla Mongolia, perché è là che si produce, se il prosciutto è fatto con carni che vengono dal Brasile o dalla Francia, è inevitabile che accada. Porto l'esempio del prosciutto perché sia chiaro a tutti: la metà dei prosciutti realizzati in Italia è inevitabilmente fatto con carni importate dall'estero, perché non abbiamo noi una produzione zootecnica sufficiente, non l'avremo mai. È vero che il prosciutto di Parma o il prosciutto di San Daniele, non a caso si chiamano così, è fatto con carni che vengono da alcune specie di animali prodotti nel nostro paese. E quindi questa è la differenza: ci sarà sempre un Made in Italy che sarà prodotto interamente in Italia e magari per questo costa di più, molto di più, e ci sarà inevitabilmente e sempre più un Made in Italy che è prodotto magari in Italia ma con materie prime che vengono all'estero, oppure lavorato parzialmente all'estero e rifinito in Italia. E se che può essere etichettato Made in Italy solo se la lavorazione, se il valore aggiunto è stato fatto prevalentemente in Italia. Io credo che in questo campo debba valere sempre più il principio della trasparenza, in modo che poi sia il consumatore a scegliere se acquistare un prodotto fatto integralmente in Italia, che inevitabilmente costa di più, o un prodotto fatto parzialmente in Italia o anche importato dall'estero. Poi il consumatore è libero di scegliere, deve essere libero di scegliere. Eccoci qua in studio. Devo dire che è impazzito il picco degli SMS su questi sul punto ovviamente delle contraffazioni. Ci sono tipologie di ogni tipo di interventi da parte dei nostri ascoltatori, dalle borse agli occhiali alla Geox e a come realizza in maniera diversificata parte dei suoi prodotti. Veramente un grande picco. Abbiamo Luciano da Padova in linea. È caduto Luciano da Padova, mi hanno detto. Benissimo, quindi l'avevo interrotta, viceministro Urso. Possiamo un secondo però tornare su un punto che riguarda gli impegni sottoscritti all'Aquila in concreto per l'Italia? Chiudere il Doha Round, che era aperto da tanti anni, in concreto per i tipi, le tipologie di export italiano, che cosa può rappresentare di vantaggio? Innanzitutto il fatto che non si possono più alzare barriere e dazi. Oggi, proprio in questo anno terribile per l'economia, molti paesi stanno aumentando i dazi. Recentemente sull'arredo in Russia, anche se la Russia non aderisce al WTO. Ebbene, tra le norme che erano state già acquisite e che quindi saranno parte integrante del Doha Round, nessuno più nel mondo potrà aumentare i dazi prestabiliti negli accordi internazionali. E questo è importante, cioè nessuno potrà più difendersi col protezionismo. È importante per l'Italia, perché prima il discorso di fondo che facevamo: noi ci guadagniamo o ci perdiamo dagli scambi commerciali? Noi ci guadagniamo. Se non avessimo noi il deficit energetico, la nostra bilancia commerciale oggi sarebbe in attivo di 54 miliardi di euro. Un terzo del prodotto interno lordo del paese è determinato dalle nostre esportazioni. Noi siamo un paese esportatore, ovviamente anche per questo importatore, perché non avendo materie prime, ma esportando prodotti finiti, noi dobbiamo importare materie prime, lavorarle, dargli valore aggiunto, creare ricchezza e benessere e esportare i prodotti nel mondo. Se il mondo alzasse le barriere, noi moriremmo, perché non abbiamo più la capacità di esportare questi prodotti, di venderli talvolta ad alto prezzo ovunque nei mercati che crescono. È tornato in linea. Aspetta un secondo, la interrompo perché le risposte lunghe poi per radio diventano. È tornato in linea Luciano da Padova, sentiamo cosa ha da dirci perché poi ricade la linea. Buongiorno. Ci dica. Intanto saluto il vostro ospite e tutti gli ascoltatori. Premetto che ho vissuto per oltre 5 anni nella zona del Varesotto, per cui le industrie del tessile della zona, che ho visto chiudere sistematicamente tutte quante. Oggi lavoro nella riviera del Brenta, dove ci sono fatte le scarpe, e nella zona del tessile della bassa padovana. Quindi diciamo che ha fatto negli anni una radiografia di tutti i settori che oggi sono più esposti al blocco del commercio mondiale. Allora, sono diventato anche un piccolo amministratore locale, per cui ho seguito in particolar modo l'evolversi della situazione nel mio comune. Io mi sono accorto praticamente che avevamo 50 aziende tessili, più o meno, nel nostro territorio. A una profonda indagine abbiamo visto che su 50 aziende tessili, 48 erano di proprietà cinese. Di conseguenza producono Made in Italy, lo fanno qui, lo fanno al costo molto più basso di quello che fa praticamente il nostro imprenditore, la nostra azienda, semplicemente perché? Perché loro fanno lavorare degli schiavi che arrivano dalla Cina, lavorano per 10 anni gratuitamente per il datore di lavoro, e immagini su 50 aziende, 48 cinesi, vuol dire avere mandato a casa tutte la manodopera, le maestranze del nostro territorio, che hanno sistematicamente chiuso. A un controllo che abbiamo fatto fare dai vigili dall'ispettorato del lavoro sono risultati completamente fuori regola tutti quanti, li abbiamo fatti chiudere una buona parte, un'altra parte sono appellati, ha fatto ricorsi, sono spostati e hanno riaperto in altri posti. È l'eterno discorso, il problema non è risolvibile facilmente, ma l'unica soluzione secondo me è l'abbattimento del costo del lavoro e della pressione fiscale sull'industria. Non c'è nessun'altra soluzione, se no vuol dire mangiarsi la gallina che ci fa le uova d'oro. Quanto sono d'accordo con lei su questa questione del fatto che con le tasse e i contributi alti il lavoro si perde e inevitabilmente la concorrenza mondiale invita a delocalizzare, ma non invita a delocalizzare chi non ama il proprio paese, chi vuole tenere in piedi impresa, perché questo è il punto che i politici che difendono le alte tasse a volte rifiutano di capire. E quando dico i politici non voglio fare qualunquismo. Un ultimo ascoltatore e poi cediamo per la conclusione e tutte le risposte la linea al vice ministro Urso. Abbiamo Alessandro da Milano, ci dica Alessandro. Sì, buongiorno, io opero nel settore vinicolo, volevo fare un intervento riguardo appunto delle contraffazioni che ogni anno avvengono in questo settore. Per anni ho fatto direttore marketing di una delle più grandi aziende italiane, poi me ne sono andato abbastanza schifato, adesso cerco di promuovere piccole aziende in giro per il mondo. Quello che volevo dire è questo, molto semplicemente: mi sono accorto negli anni che tanti grandi produttori preferiscono, come dire, per scelta arrivare a scegliere di effettuare reati di frode commerciale piuttosto che cambiare i loro metodi produttivi, il che eventualmente richiederebbe dei grandi investimenti. Quindi la motivazione degli scandali che sono successi negli ultimi anni, dal Brunello al Chianti Classico, al vino nobile di Montepulciano, in ultimo, in realtà sono scelte precise che certe aziende effettuano. Poi ogni anno, all'arrivo del Vinitaly, piuttosto che, mi vedo questi stessi grandi personaggi che vengono premiati una volta dal Presidente della Repubblica, una volta dal Ministro dello Sviluppo Economico, una volta dal Ministro dell'Agricoltura, come grandi esempi di soggetti che portano l'Italia in alto. Chi subisce tutto questo? Il piccolo produttore che rimane fuori dai giochi commerciali perché non può competere con loro, che rimane fuori dai giochi perché non può investire e che subisce, pur sapendo, questo tipo di comportamento. Allora, vedo un po' di contraddizioni in ciò che dice il ministro Urso, no? La trasparenza, l'onestà e tutto quanto, e poi alla fine questi personaggi rimangono lì, vengono citati, vengono premiati, vengono messi sul podio e non cambia mai niente. Quindi chiarissimo, forse Alessandro, la politica in generale dovrebbe cambiare un certo tipo di atteggiamento, dovrebbe un po' smettere di flirtare con questi grandi imprenditori che poi alla fine fanno e attuano comportamenti al di fuori delle regole, ma tutto sommato preferiscono pagare qualche multetta piuttosto che effettivamente cambiare atteggiamento. Chiarissimo Alessandro, del resto in ogni segmento produttivo, in ogni tipo di interesse economico, sono poi di solito anche i grandi gruppi ad avere, non dico il monopolio, ma insomma la preminenza nella rappresentanza e quindi anche nell'interlocuzione poi di tipo politico-sociale. Vice Ministro Urso, come si può impegnare di più perché i piccoli, diciamo così, trovino maggiore ascolto, soddisfazione, intervento di capitali, di assicurazione, per le loro esportazioni e così via, per i piccoli specificamente? Due cose, innanzitutto 20 anni fa uno scandalo dell'adulterazione, quello sì davvero gravissimo, fece realizzare una rivoluzione nel vino italiano. 20 anni fa lo scandalo metanolo, chi non lo ricorda? Morti, decine di morti nel nostro paese. Da allora ad oggi c'è stata una rivoluzione culturale e produttiva, c'è stata una piena trasparenza, l'alimento del vino è oggi un prodotto di grande qualità e questo ci ha permesso di affermarlo nel mondo. Seconda questione, grandi, io non conosco grandi produttori di vino italiano, io conosco piccoli produttori di vino italiano, troppo piccoli nel mondo. In Australia 5 sono grandi produttori e detengono oltre l'80% del vino australiano. In Italia sono migliaia di produttori di vino, sono tutti piccoli rispetto alla competizione mondiale. Fortunatamente producono sempre più, anche se piccoli, prodotti di grande qualità che sono acquisibili e sono appetibili nei mercati internazionali, nei segmenti di alta qualità. E noi abbiamo, lei lo sa meglio di me, 4.300.000 imprese in Italia, la maggior parte per la verità di un unico attore, 200.000 imprese esportatrici, il doppio della Germania e della Francia, 35.000 imprese che hanno investito all'estero rimanendo in Italia. Il nostro tessuto produttivo è fatto in gran parte di piccole e medie imprese ed è per questo che ovviamente noi chiediamo loro di lavorare insieme nei sistemi, nei distretti, nei consorzi, nelle associazioni temporanee di impresa, perché questo è il modo migliore per supportarle meglio all'estero. Comunque, anche per i piccoli, anche per il più piccolo, ovviamente è possibile utilizzare gli strumenti che lo Stato, attraverso le agenzie interne di promozione, la SACE per l'assicurazione, la SIMER per gli investimenti all'estero, mette a loro disposizione. Ma ovvio, voglio essere molto chiaro, è difficile per la mia amico ambasciatore in Romania soddisfare pienamente le 26.000 imprese italiane che hanno investito in Romania, o le altre decine di migliaia che esportano i loro prodotti. È un unico ambasciatore con pochi funzionari. Diverso è il caso dei tedeschi o di americani che agiscono con grandi holding e quindi gli interlocutori sono pochi e possono essere più ascoltati. Grazie al vice ministro Adolfo Urso che ci ha dedicato quest'ora per capire meglio il punto di ieri sottoscritto al G8, ma che cosa in concreto si può fare per il rilancio del commercio dell'export italiano. Io ringrazio anche voi, vi ricordo che il numero di telefono dove intervenire 800 24 00 24, e anche aspettiamo le vostre mail a 9@radio24.it. Ringrazio la regia Petra Bescapè e Gloria Guerrera, qui oggi affiancata eccezionalmente da Alessandro Marco Tulli. La linea al GR, con me appuntamento a lunedì mattina.